giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. L'infanzia è il suolo sul quale andremo a camminare per tutta la vita. Lia Luft. Bentornati in giardino per quest'ultima domenica di novembre. Stiamo tutti pensando a cosa succederà a dicembre, a come potremo trascorrere le festività natalizie, il tutto senza che si sia sciolto il nodo cruciale della scuola. Intanto, durante questi due lockdown, c'è chi si è dato da fare per pensare a semplici e poco dispendiose soluzioni verdi per le nostre classi. Sì, sto parlando delle piante, che da tempo si va ripetendo andrebbero messe nelle scuole per una lunga serie di buoni motivi, e allora prendiamo spunto dal progetto Eden, partito nelle scuole di Bolzano, dove le piante tra banchi e bambini servono anche, e sottolineo anche, come distanziatori verdi. Un progetto d'opera non di un botanico, di un agronomo, di un architetto paesaggista, professionisti che abbiamo il piacere di ospitare qui al Giardino Segreto, bensì di una scienziata della formazione, una pedagogista, Beate Bailant, docente di didattica all'Università di Bolzano, che è con noi al telefono. Anzi, io sono molto contenta di poter parlare dopo che abbiano parlato tutte le persone che lei ha indicato, perché sono proprio quelle le persone con le quali mi voglio incontrare e che sto già incontrando per dare forza al nostro progetto. Il progetto Eden. Eden è un acronimo che significa ambienti educativi naturali, Educational Environments with Nature, ma è anche una promessa. C'è l'idea che il paradiso, Eden, il nostro Eden, si possa fare anche a scuola con pochi mezzi, che sono proprio l'idea di portare le piante, cioè di permettere ai bambini e agli insegnanti di portare la propria pianta nell'edificio scolastico e finalmente farlo diventare qualcosa di diverso da quello che è sempre stato. Ci sono tante ricerche scientifiche e anche nel nostro piccolo, al Giardino Segreto, non facciamo che ripetere che portare piante negli spazi indoor, nelle case, negli uffici, nelle scuole, negli ambienti pubblici può fare solo bene, i motivi sono tantissimi e in più è arrivato il Covid, per cui le piante riescono a essere utili anche in questa circostanza. Sì, diciamo che questo è stato un aspetto aggiuntivo che abbiamo esplorato proprio quest'estate nel verificare che portando le piante all'interno si potevano creare delle isole di lavoro individuale, di gruppo, di approfondimento personale contrassegnate dalle piante. Quindi piante che potevano fare da distanziatori, ma per quanto riguarda la mia accezione non vogliono essere proprio dei distanziatori, ma dei contrassegni per indicare alle persone dei luoghi di appropriazione e dei luoghi anche di raccoglimento, in cui tu ti puoi sentire un po' per conto tuo e fare le cose, che è un'attività che facciamo anche a scuola in questo tempo, no? In cui ci esercitiamo a lavorare anche da soli per poter farlo meglio anche a casa senza la presenza degli insegnanti. Del resto, tra le piante si sente aver trovato il proprio posto nel mondo, per cui certo non possiamo definirle solo distanziatori verdi, questi esseri viventi all'interno delle classi. Certo, fanno anche quello. Assolutamente sì, ma nel nostro progetto l'idea è di andare molto più in profondità. Come scienziata mi importa di approfondire se il tema delle piante può essere qualche cosa che riguarda anche il nostro universo, cioè quello della didattica e quello della relazione educativa. Sono nate delle esperienze molto belle e io penso una delle più belle che mi piacerebbe condividere con voi oggi qui è quella che ho sentito ieri da parte di due insegnanti di asilo nido, che hanno raccontato che hanno iniziato a portare le piante da settembre negli ambienti educativi del nido e chiaramente i bambini piccolissimi in un primo tempo, cioè, non avevano cura delle piante, le rovesciavano, non c'era giorno che non si rovesciasse una pianta, che non ci fosse qualche problema con queste piante, e adesso che sono passati alcuni mesi l'approccio con le piante è completamente cambiato. I bambini hanno attenzione alle piante, sono diventate le loro amiche, le nominano, le prendono, le portano vicino a sé per giocare, e adesso stiamo studiando una serie di attività ludiche in cui la pianta diventa un mediatore o un protagonista dell'attività. L'interazione con loro, addirittura il gioco, esatto. Con giocare con le piante. Sì. È possibile. Giochiamo anche a nascondino con le piante. le nascondiamo e le andiamo a cercare con i bambini, vediamo qual è la pianta che manca, dove si è nascosta. Insomma, sono delle attività molto creative, molto belle, ma che ci permettono di incontrare la pianta in un modo assolutamente non convenzionale. Questo è quello di cui abbiamo bisogno per donare a questi bambini, ma anche a noi stessi, un incontro con la natura diverso, no? E questo ci permette poi di uscire e di rivedercela la natura in un'altra maniera, cioè con un'altra attenzione, con un'altra sensibilità, con un'altra profondità. E questo non solo avvicina i più piccoli alle piante, ma fa sì che i più piccoli abbiano dei benefici dalle piante senza neppure accorgersene. Perché comunque fare un compito, studiare anche soltanto all'ombra di una pianta d'interni, di una grande pianta d'interni, credo che ne porti dei benefici. Sì, su questo penso che voi abbiate avuto vari ospiti che hanno fatto presente quanto la presenza delle piante negli ambienti indoor contribuisca al ricambio dell'aria e alla purificazione dell'aria. In quel Un caso con illustre. molte piante indoor, molte piante Con indoor. molte piante indoor, Non certo. illudiamoci, ce ne vogliono tante. Ce ne vogliono tante, però noi questo stiamo provando a fare, a proporre anche nelle scuole che comunque sono completamente prive di piante e sono dei luoghi in cui si stanno tante tante ore al giorno e non ci spieghiamo, io che ci sto studiando tanto sugli spazi scolastici, non mi spiego più perché le piante non debbano essere tante, proprio tante, non debbano essere anche nello spazio scolastico. Com'è possibile che tutte le scuole di metodo, e andate a vedere, dalle scuole di Reggio Children alle scuole senza zaino, per parlare delle più moderne, ma come anche le scuole steineriane, ci sono le piante? Questo è un dato che adesso io passerò anche sotto i riflettori della scienza, perché è incontrovertibile, cioè la pianta è proprio un oggetto che nelle scuole di metodo è presente, mentre nelle scuole che non ragionano sulle qualità degli spazi, sull'appropriazione, eccetera, non c'è. Interessante, no? E qui torniamo a quello che diceva poco fa, cioè al fatto che lei non si spiega il fatto che le piante non siano dappertutto, perché è anche il metodo più economico, possiamo dire. Quanto possono costare delle piante? È un metodo economico, anche su questo non c'è ancora tantissima consapevolezza da parte degli insegnanti. Allora, nel nostro progetto ogni persona è una pianta, porta la sua pianta e durante anche le pause estive, eccetera, può portarsi la sua pianta a casa, è la sua pianta. Quindi se pensiamo a una popolazione di una scuola qualunque di 300 bambini più i loro 50 insegnanti, avremo 350 piante. Sono 25 piante in una stanza e già questo non è poco. Ovviamente verificando come posizionarle nell'ambiente classe, che è molto più capiente di quanto non si creda. Cioè noi crediamo, no, ci stanno a malapena 25 studenti, figurati se ci mettiamo anche 25 piante. Il più grande errore, quelli che come voi hanno dimestichezza con le piante sanno benissimo che in un ambiente anche piccolo possono starci una enorme quantità di piante, sia a terra che appese, insomma, molte di più di quanto noi non immagineremmo mai. E io questo ho fatto e quindi gli insegnanti hanno detto: ah, è vero, cioè ci stanno veramente più di quello che noi credessimo. Io ho visto, anzi, chi fosse interessato può andare su YouTube a vedere qualche filmato delle vostre classi. Io credo di aver riconosciuto un ficus lirata, bello grande, delle iucche, degli Sì, spatifillum. Cosa mettete poi nelle esatto. classi? In generale sono tutte piante equatoriali, piante d'appartamento, le tipiche piante che noi troviamo nei supermercati, i nostri migranti le chiamo, sono delle piante che hanno fatto lunghi viaggi per arrivare fino a noi e che può essere un Democulcas, può essere un Pothos, cioè qualunque pianta facilmente, come dire, reperibile. Ci sono piante bellissime che costano anche pochissimo, Poi sono tutte. piante come il Pothos o anche come Zameoculcas, sì, si riproducono da sole, basta tagliarne un rametto, metterle in un altro vasetto e abbiamo una nuova pianta che crescerà, che un bambino potrà seguire. Esatto, questo poi è il passo successivo sul quale vogliamo anche lavorare per capire come quindi fare diventare veramente delle le scuole le nostre nuove giungle indoor, no? Indoor e outdoor. Il tema è di creare questo ponte tra dentro e fuori. Per adesso il dentro è troppo povero di natura per poter ispirarci a conoscere la natura in modo più profondo. Fate caso che le persone, i grandi amanti della natura, spesso, molto spesso hanno anche le piante all'interno, o comunque hanno una cura delle piante anche all'interno. Questo di nuovo mi convince che non è vera questa cosa del pollice verde. Cioè, il pollice verde è una grande storia che ci blocca o comunque ci giustifica nel nostro non coltivare un rapporto con le piante, con la natura. Non voler Chi aprire gli occhi verso di loro. ce l'ha ha un'eredità educativa, ha avuto un dono da parte di qualcuno della famiglia, in generale della famiglia, anche questa è una ricerca che stiamo facendo, che aveva questo amore per le piante. E questo mi convince ancora di più di portare le piante nel mio processo di ricerca pedagogico-didattica. Per tutti coloro questo contatto diretto non l'hanno, perché come ripeto sempre, ormai i cittadini lo sono da generazioni e sempre più persone non hanno papà o nonni con orto, con balcone e così Esatto. via. Me per prima, ad esempio. Questo non mi ha impedito però di cercare di riavvicinarmi, ed è un processo che va fatto naturalmente a partire dall'infanzia. Ma guardi, non è necessario che sia a partire dall'infanzia perché stiamo facendo queste esperienze con insegnanti che hanno scoperto da un momento all'altro, persone adulte, studenti comunque maturi, insomma maggiorenni e quant'altro, hanno scoperto da un momento all'altro, provando, hanno scoperto tutto un tratto questa capacità di colorare, di arricchire i loro ambienti con le piante. Non è mai tardi, assolutamente, È e vero. capita a qualunque età, ma per quello dico, bisogna partire dall'infanzia, per non perderci una serie di decenni non in compagnia delle È piante. vero, è un fatto anche educativo e in più sempre più necessario, perché un aspetto sul quale noi puntiamo tanto è il tema anche degli obiettivi 2030, della salvaguardia della nostra terra, che è la grande, grandissima sfida che aspetta le nuove generazioni e che va oltre il Covid, o che Covid è una prima manifestazione di tutto questo, può essere anche, anche dico, noi dobbiamo riuscire a dare loro degli strumenti per incontrare questa terra e per salvare questa natura che è l'unica che ci permette di vivere su questo pianeta. Ma non abbiamo più bisogno di parlarne in questo modo generale, obiettivi 2030, grandi obiettivi che devono fare le grandi potenze, non so sa chi, ma alla fine non arrivi mai alla persona che su questo inizia l'atto. No, l'azione promuove un'azione che è dentro lo spirito di questi grandi propositi. Donnez-nous des jardins où y faire des bêtises, d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins d'où l'on est si content. De rentrer les genoux tout ensemble. Per monitorare il progetto di Beate Vaillant e dell'Università di Bolzano c'è la pagina Facebook Eden Fare il Paradiso a Scuola con la Natura. Quanto alle piante da posizionare in classe o anche a casa, vi consiglio un libro molto interessante perché copre tutte le tipologie di piante da interni, non solo quelle in vaso. Si intitola La casa sempre verde, trasforma i tuoi spazi con le piante ed è edito da Corbaccio. Un libro che sarà amatissimo dai millennials, anche loro, specie nel Regno Unito, ormai pazzi per le piante. Ne parliamo tra un attimo. Il giardino segreto. Tra le piante si prova la sensazione di avere trovato con estrema facilità il nostro posto nel mondo. Pia Pera. Bentornati. Dopo una pedagogista, accogliamo al giardino segreto una sociologa, docente di sociologia all'Università di Belfast in Irlanda, che proprio sotto lockdown ha fatto partire un progetto per capire come l'esperienza della pandemia stia cambiando, migliorando il nostro rapporto con il mondo vegetale. Piante che già prima di questo 2020 avevano conquistato, specie nel Regno Unito, l'universo dei millennials, dei ragazzi. Lei si chiama Giulia Carabelli ed è l'ideatrice del progetto Care for Plants. Sì, il progetto è nato proprio come una curiosità, nel senso che io amo le piante d'appartamento e quando siamo entrati in lockdown qui a marzo, qui nell'Irlanda del Nord, ho realizzato come queste piante fossero diventate parte della mia vita, ma anche ho osservato come in realtà tante delle persone che facevano parte del mio network avessero cominciato a parlarmi delle piante e quindi queste piante erano diventate così, insomma, argomento di conversazioni giornaliere. E da qui la curiosità, proprio di capire come queste piante avessero preso così tanto spazio nella vita delle persone che così tutto ad un tratto si sono ritrovate in casa, a non poter uscire, a essere isolate dagli altri umani. E quindi è nato Care for Plants, ma è un progetto legato all'Università di Belfast? Sì, il progetto ha avuto un finanziamento molto molto piccolo dall'Università, nel senso che l'Università ci ha spinto, incoraggiato a fare delle ricerche sui processi sociali che erano collegati alla pandemia. E quindi con due colleghe abbiamo sviluppato tre progetti che erano interessati a questa idea di care, quindi di prendersi cura delle persone, delle piante, e come questo prendersi cura delle persone e delle piante fosse cambiato in un momento in cui la nostra vulnerabilità era diventata così, insomma, evidente. E quindi così è nato Care for Plants. Care for Plants che coinvolge molti millennials, cioè parliamo di giovani, perché l'interesse per queste piante, ma più che interesse, una sorta di amore, di atteggiamento quasi familiare nei confronti di questi esseri viventi che sono sempre stati considerati, come dire, decorativi. In realtà, a quanto pare, anche dalle vostre ricerche, questo è cambiato durante il lockdown. Sì, ma in realtà penso che il fenomeno fosse preesistente, nel senso che io da tanto tempo ho notato, specialmente sui social media, soprattutto su Instagram, il fenomeno delle plantfluencers, quindi persone che si occupano di piante, che pubblicano informazioni sulle piante, che pubblicano foto di piante sui social media, e quindi si creano queste comunità virtuali di persone che sono appassionate di piante, che scambiano informazioni. Quindi è un fenomeno che era precedente, secondo me, mi hanno anche scritto, insomma, con il fenomeno delle piante nelle case dei millennials, era precedente alla pandemia. Però con la pandemia e il fatto che, insomma, ci siamo ritrovati a non poter uscire di casa, questo fenomeno è diventato gigantesco, e questo si riscontra anche nel fatto che, per esempio, le vendite di piante d'appartamento sono in alcuni casi triplicate, centuplicate, non solo qui nel Regno Unito ma anche nel resto del mondo, immagino anche in Italia. L'Italia di solito è sempre un po' indietro rispetto al Regno Unito per quanto riguarda il verde e le piante, però devo dire che anche l'Italia sta rispondendo moltissimo. Questo interesse dei millennials per le piante, in particolare per le piante d'appartamento, che poi, come ci ha spiegato, poi si è intensificato durante il lockdown, secondo lei è legato al fenomeno di Greta Thunberg, quindi di questo movimento dei ragazzi a favore dell'ambiente, o no? Assolutamente. Ci sono tanti processi, secondo me, che hanno favorito questa cosa, no, del fenomeno delle piante d'appartamento. Da una certa prospettiva è sicuramente questo fatto che le generazioni, soprattutto le generazioni nuove, quindi quelle che sono anche molto più giovani dei millennials, hanno preso questa climate change, insomma il desiderio di fare qualcosa per migliorare la condizione ambientale, molto seriamente. Lo si vede con le manifestazioni, gli interventi, e sicuramente questo ha favorito la crescita di una diversa sensibilità verso il mondo naturale. E quindi avere le piante in casa significa anche per tanti, anche le persone con cui ho parlato, significa portare nella casa la natura che spesso non è accessibile, soprattutto per le persone che vivono in città, che non hanno la possibilità, insomma, di passare tempo nella natura, e quindi la natura viene in casa. Dall'altra parte c'è anche un altro fattore, ed è questo senso come di alienazione, o che si avverte soprattutto nelle grandi città, o che si avverte tra le persone che vivono da sole, che quindi non hanno tante relazioni con le persone umane, e questo poi in realtà si è intensificato molto con la pandemia. E quindi la pianta d'appartamento diventa un compagno, una presenza, anche una presenza amica, una presenza familiare, una presenza vitale. E anche una semplice pianta d'appartamento può diventare, come dire, il trade union con la natura, con l'ambiente fuori, alla fine col pianeta, sembra strano dirlo. Assolutamente, assolutamente. Questa in realtà è la cosa che mi ha sorpreso di più facendo le interviste, raccogliendo immagini di come le persone si rapportano con le piante, nel senso che quasi tutte le persone che ho intervistato durante questa ricerca hanno realizzato che, anche se avevano già piante in casa prima della pandemia, una volta che il loro rapporto con le piante si è intensificato, perché stavano 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana con queste piante, hanno realizzato come queste piante fossero esseri viventi, e quindi il fatto che ci siano nuove foglie, che crescano o che a volte insomma non stanno tanto bene. E questo fattore ha veramente risvegliato qualcosa nelle persone, nel senso che tanti mi hanno detto: ho capito come le piante in realtà sono, non sono esseri altri, ma sono assolutamente come noi. Ha veramente sviluppato questa sensibilità che è nuova di come ci rapportiamo con il mondo naturale. Lei ha fatto delle interviste, le sta facendo, ma diciamo che chiunque può mettersi in contatto con lei e dare la sua testimonianza di come è cambiato, se è cambiato il rapporto con le piante durante il lockdown, perché c'è questa pagina Instagram. C'è una pagina Instagram che si chiama Careful Plant, e dove archivio le immagini che mi mandano sulle piante. Di solito le immagini sono accompagnate da delle parole, quindi le persone che condividono queste storie con me mandano delle foto che sono significative di come la loro vita è cambiata attraverso la cura delle piante, soprattutto durante la pandemia. E la pagina Instagram è accessibile a chiunque abbia un account su Instagram, e sono sempre alla ricerca di nuove storie. Ecco, dell'amore per le piante da interno che sta diventando virale anche sui social tra i giovani del Regno Unito, si sa ormai da tempo. Per quello che stai vedendo, sta succedendo anche ai ragazzi italiani? Ma sicuramente seguo una pagina su Facebook che si chiama Piante d'Appartamento, che è esattamente lo stesso, insomma, il fenomeno che ho visto per tanti anni prima su Instagram. Ed è una pianta di persone spesso molto giovani, italiane, che scambiano foto delle loro piante d'appartamento, ma anche si consigliano, soprattutto se c'è, insomma, se una pianta non sta bene, allora la comunità interviene. Quindi assolutamente è un fenomeno che è globale. E certamente quello delle piante sta diventando un fenomeno interdisciplinare, perché ormai non se ne parla più solo con gli arboricoltori, botanici, eccetera, ma ne parliamo con lei che è una sociologa, ne abbiamo parlato con una pedagogista che le sta applicando nelle scuole. Evidentemente, insomma, ormai le piante si prestano veramente a più discipline, a più scienze. Cosa dice? Assolutamente, assolutamente, e spero che continui, insomma. Nella mia ricerca ho incontrato tante persone che sono psicologi e hanno cambiato la loro pratica della psicologia una volta che hanno incontrato le piante, quindi adesso per esempio fanno terapia usando le piante. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. Sweden. You are never too small to make a difference. Scesa dalla luna, come una nave di vichinghi, nella notte scura, alla Casa Bianca, forte come un manga. You have ignored us in the past and you will ignore us again. Ignore us again. Picnic all'inferno, siamo cotti a fuoco lento, siamo carne per avvoltoi, e gira gira siamo sempre noi. Plastica e cemento. Siamo nudi e siamo armati, siamo quelli che si sono alzati. Care for Plants su Instagram per partecipare al progetto di Giulia Carabelli. Quanto a come curare e scegliere le piante da interno, vi invito a riascoltare su radio24.it o sulle piattaforme podcast la puntata del Giardino Segreto intitolata Tutto sulle piante d'appartamento, andata in onda nel dicembre scorso, la trovate facilmente. Vi aspetto domenica prossima nel Giardino di Radio 24. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.